Italia in controluce. L'appuntamento di Radio 24 con la cronaca, le storie che non avete sentito altrove. Questa è l'Italia in controluce. In studio Alessio Maurizio. Domenica 9 maggio è la giornata delle vittime del terrorismo. A Genova c'è un magistrato, figlio di un tenente colonnello dei Carabinieri, ucciso dalle Brigate Rosse, che dopo 30 anni ha rotto il silenzio. Al microfono di Andrea Ferro parla dei rischi di una nuova stagione di piombo. Lui è Mario Tuttobene, il figlio di Emanuele Tuttobene, ucciso a Genova nel 1980. Era il 25 gennaio, era una giornata invernale, fredda ma luminosa, di sole. Mio padre rientrava con l'autovettura di servizio tutti i giorni più o meno a quell'ora. Io ero rientrato dall'università da pochissimo, mia madre stava preparando da mangiare. Era l'una e un quarto quando io dalla finestra sento degli spari, prima una raffica di mitra, poi colpi singoli. Mia mamma mi viene incontro, aveva sentito anche lei, dice: hanno sparato. Naturalmente lei è arrivata dicendo: hanno sparato a papà, perché se lo sentiva, ecco. Una scena veramente spaventosa. Mio papà era ancora vivo, ma non credo che mi abbia riconosciuto. Quel giorno del 1980 Mario Tuttobene aveva 20 anni. Per tanto tempo ha preferito l'ombra e il silenzio sui quali puntellare una famiglia falciata nei suoi affetti più profondi. Oggi è un giudice del Tribunale di Genova e ha deciso di raccontare la sua storia e quella di un'epoca buia per contrastare quel processo di rimozione che minacciava di avvolgerla, distorcendone la memoria. Ci siamo resi conto in tanti che eravamo giunti a un momento cruciale. Era passato tanto tempo dai fatti più gravi o comunque dagli anni in cui il terrorismo era particolarmente virulento. La memoria andava scemando. C'era gente che era adulta e al tempo dei fatti era appena nata o non era ancora nata. Diciamo che il terrorismo era uscito dall'ambito della cronaca e non era ancora entrato nell'ambito della storia. E questo si sentiva, secondo me, si sentiva perché stava cominciando a calare una cappa di oblio, di silenzio, o peggio ancora di revisionismo. E io, ma ho notato contemporaneamente altra gente che aveva avuto la mia stessa situazione, abbiamo constatato che era il momento di fissare certi punti fermi che devono passare attraverso un esercizio della memoria. Un esercizio della memoria che tanto più di questi tempi possa valere come monito capace di scuotere l'indifferenza, una memoria costruita sulle testimonianze dei familiari e delle vittime e non più solo sul frastuono reducistico dei carnefici, di cui il giorno della memoria istituito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ma, dottor Tuttobene, esiste il pericolo che da una stagione di forti contrapposizioni ed incertezze possa di nuovo sgorgare il sangue? Questo esercizio di memoria, io ho sempre detto, va fatto non per le vittime, non per chi ha perso delle persone care allora, ma per noi, cioè per noi presenti e per i nostri figli. Perché se noi perdiamo il ricordo di quello che è stato, di quante sofferenze, quanti lutti, quanta angoscia il paese intero ha dovuto affrontare ed è riuscito a superare in quegli anni, se noi non ce lo ricordiamo, allora è una lezione che non ci è stata utile. E allora significa che il pericolo di trovarci invischiati in una situazione di disinteresse, di disprezzo per lo Stato, di disprezzo per la legalità, di faziosità, di odio, di rancore che politico, che produce ulteriore odio e produce il sogno di azioni liberatorie che poi presto o tardi in qualche persona diventa azione vera e propria, c'è. Vittime e carnefici, vendetta e perdono. Nella coscienza di vedove ed orfani degli anni di piombo, i sentimenti si aggrovigliano tra reazioni, esperienze ed esigenze diverse. Non ritengo che il perdono sia una virtù morale. Non credo neanche nella vendetta. Io credo che l'atteggiamento più saggio e più giusto sia quello di una memoria attiva e vigile e di una comprensione del fenomeno. Quindi il vero dovere etico e morale, secondo me, è quello di capire che cosa è successo e di ricordarlo. Quindi io dico sempre, quando penso alla morte di mio padre, per me è come se fosse stato morso da un serpente. Nel senso che io non dedico la mia vita alla persecuzione dei serpenti. Non sono particolarmente lieto se ne incontro uno, ecco. Italia in controluce. E ora un'altra storia, l'ha scritta Luca Tarantelli, figlio di Ezio, economista ucciso dalle Brigate Rosse, il primo dei riformisti entrato nel mirino del terrorismo, Daniele Biacchesi. Luca Tarantelli, figlio di Ezio Tarantelli, un esperto di economia che è stato ucciso dalle Brigate Rosse nel 1985. Per ricordare la figura di Ezio Tarantelli, Luca ha realizzato un film. Questo film nasce da un'idea che io ho maturato da diversi anni e che ho cercato di realizzare in occasione del 25esimo anniversario della morte di mio padre. È un viaggio alla riscoperta di mio padre, un padre che io avevo rimosso, comunque quasi mitizzato, che per me era rimasto quasi una figura mitologica, no? A partire dai racconti che me ne facevano le persone, ma non ero riuscito a recuperare in qualche modo la sua umanità, no? Il suo essere padre, quindi sicuramente questo percorso di questo viaggio di interviste, di riandare sui luoghi dove lui ha lavorato, dove a intervistare le persone con cui che gli erano più vicine, i suoi più stretti amici e collaboratori, mi ha sicuramente aiutato a recuperarlo come figura anche per me. Insomma, tuo padre era un riformista, era uno degli uomini che lavorava tra governo e parti sociali per riforme strutturali, riforme importanti. La sua memoria, secondo te, viene rappresentata all'interno di questo film? È la memoria che tu hai trovato anche in tante persone che lo hanno conosciuto? Sì, è la storia di un uomo... Che da giovane aveva una situazione familiare molto particolare, no? Riscopre anche mio nonno era un cantante lirico, era figlio di proprietari terrieri, di possidenti terrieri ricchi, e mio padre si ritrova a un certo punto povero e quindi deve affrontare tutta una serie di difficoltà e di difficoltà e uscirne anche con la determinazione anche di umiliazioni, perché quando per sopravvivere ha dovuto andare a vendere le mattonelle, ha dovuto fare la guida turistica, solo che ha fatto la guida turistica abusiva e quindi non era molto gradito dalle guide turistiche regolari, però ha sviluppato una forte determinazione, solo che la sua determinazione non era la determinazione di chi dice mai più e si risolleva soltanto lotto per costruire una mia famiglia che sia ricca, non so, divento imprenditore, divento banchiere. No, lui ha questa spinta l'ha utilizzata per studiare il mercato del lavoro e per cercare di fare in modo che nessuno potesse più in futuro essere disoccupato, quindi questa è la sua vera ossessione, il vero leitmotiv che ha guidato tutta la sua vita era quello di cercare di risolvere il problema della disoccupazione e quindi di creare una società in cui ci fosse benessere per tutti. Ti sei fatta un'idea del perché le Brigate Rosse hanno ucciso proprio tuo padre, perché lui e non altri? Perché mio padre era una figura cruciale di mediazione tra diversi, lui era sicuramente schierato dalla parte del sindacato, però cercava di ragionare in un'ottica di benessere di tutti, no? Un po' lui aveva ricevuto una forte, era imprinting dalla formazione che aveva ricevuto negli Stati Uniti, negli studi, e quindi ragionava un po' come un americano, no? Con la mentalità e la testa, e aveva questa mission, no, da americano. E poi la concertazione, l'idea stessa della concertazione nasce da questo, dall'idea che i soggetti diversi, il governo, la Confindustria, i lavoratori, mettendosi intorno ad un tavolo, pur perseguendo ognuno magari alcuni propri obiettivi, però riescono a mettersi d'accordo su alcuni obiettivi e che l'ascolto, l'interazione reciproca riesce a produrre un maggiore benessere dolore sociale riesce, perché la condivisione di alcuni obiettivi di sviluppo e di crescita, e questo sicuramente per delle persone che, come si dice una volta, vogliono il tanto peggio tanto meglio, vogliono lo sfascio della società, perché nel loro delirio pensano che eliminando proprio quelle persone di raccordo magari si crea una tale situazione di malessere sociale che la rivoluzione è inevitabile. E quindi per queste persone mio padre era un ostacolo sulla loro via paranoica alla rivoluzione. È tutto per Italia in Controluce. Vi ricordo che potete commentare i nostri servizi, potete scriverci le vostre storie, controluce@radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, ma siamo anche su Facebook, Radio 24 Italia in Controluce. Ci sentiamo lunedì.